conversations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Febbraio del 2022, in onda Disorder anche per oggi. It's getting faster, moving faster, now it's getting out of hand. On the 10th floor down the back stairs, into no man's. Appuntamento che andrà in onda sino alle 23 circa. Crushing. Numero di telefono 0649 1750, sito internet www.ondarossa.info. Sul sito della radio poi si possono trovare le varie modalità per sottoscrivere per questa realtà che ormai i più affezionati sanno, autogestita ormai dal lontano 1977. Vado a salutare una serie di personaggi fedelissimi: Alessandra qui a Roma, Maya in Sardegna al pari di Nicola Locci di Stigmate, la Grazia Obliqua con Valerio Michetti e Alessandra Trinity Berziani, Tabula Rasa, Marco Milanesi, Rodrigo Passannanti in quel di Londra. Francesco da Bergamo, Cornelio Basilisco di Umanima, Dez De Carlo from Boston, Is It Wild da Milano. Alberto Clipper di MDMA ed altri progetti interessanti di area elettronico-industriale. Allora stiamo mettendo a posto le ultime cose, siamo pronti dunque per iniziare. Saluto anche Wunus Aileen dal Piemonte. Invece noi iniziamo dalla campagna e lo facciamo come stiamo facendo nelle ultime settimane con le corde oblique di Riccardo Principe ed altri. Lo facciamo andando a riascoltarci con molto piacere il primo lavoro ormai del lontano 2005, album anche ristampato nel 2016, un album che porta il nome di Respiri. Per chi non lo sapesse, siamo nell'ambito del neofolk, del neoclassicismo, con un'impronta anche mediterranea non indifferente, che tradiscono in un certo senso anche le origini geografiche. E questa sera è il turno di Ascesi e Orme. Thank you. Magari too sensitive to forces and when it's marking looks like an elephant. On the smooth sand there is a rumble steps, the wind cannot sweep it away. E allora ennesimo passaggio per quanto riguarda Corde Oblique, progetto proveniente dalla Campania. Questo era l'esordio Respiri ormai di molti molti anni fa, ma che conserva secondo me intatto il fascino misterioso, le magiche ballate acustiche che risentono anche della cultura mediterranea di questo progetto per evidenti motivi. Ricordiamo ancora una volta Riccardo Principe, Alessio Sica, il violino di Alfredo Notarolberti. Qui c'era la voce bellissima di Caterina Pontrandolfo, Luigi Rubino. Sentite che pianoforte intenso. E Umberto Lepore. E quindi in attesa dell'ultimo lavoro, che dovrebbe essere prossimo anche con qualche cambiamento stilistico, ci siamo un po' rinfrescati la memoria con gli esordi di questo importante ensemble campano. vado a salutare Alicia Sardina qui a Roma, Flavio Derbecante di Noise Cluster e Cecilia Miraduli di Pindar. Andiamo avanti, sempre nell'ambito più o meno del neofolk, ma con un'impostazione assai diversa rispetto a accordi oblique. Andiamo in Danimarca, andiamo da On the Wen and the Moon di Kim Larsen. Anche lui ritorna dopo parecchi annetti, una decina di anni, nei quali si è dedicato anche ai suoi progetti parallele e alle sue attività multimediali. You Love Can Hold This Red or Sorrow, questo è il titolo della ultima opera di On the Way on the Moon, che esce per la Air Runar Mic Runar, uscito nell'ottobre dello scorso anno. Andiamo proprio a concludere questo viaggio in questo bel disco con Williamsburg Bridge, la splendida Nothing For Me Here e la conclusiva Burbs of Time.